Oggi ci sarà presente a Bologna alla John Hopkins University la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde. Abbiamo indetto una manifestazione per marcare anche a Bologna l'opposizione alla guerra in cui ci stanno trascinando tutte le istituzioni europee, che è una guerra interna di cui la Banca Centrale Europea è sempre stata la prima protagonista contro le lavoratrici e i lavoratori, contro i nostri salari, e sta diventando sempre più ogni giorno una guerra esterna. Stamattina la Meloni ha detto che non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, però di fatto, mentre lo diceva, ha anche confermato che secondo tutti i trattati bilaterali stiamo concedendo agli americani l'uso delle basi sul suolo italiano per tutte le operazioni di bombardamento verso l'Iran. Quindi la realtà è che siamo in guerra e pensiamo che anche a Bologna si debba battere un colpo su questo. Noi siamo impegnati anche nella costruzione di una manifestazione nazionale 14 per il no sociale al referendum, che diventa evidentemente anche un no alla guerra, e quindi questo, la manifestazione di oggi sarà per noi di Potere al Popolo un passaggio verso la manifestazione nazionale, e in più si fonderà con la manifestazione che i giovani di Cambiare Rotta avevano già cominciato ad organizzare in solidarietà alla giornata di mobilitazione dei giovani tedeschi contro la leva militare. Ok, e oggi la manifestazione come si svolgerà? Allora, noi appunto la manifestazione avrà un concentramento dalle 16:30 in Piazza Roosevelt sotto la prefettura, dove appunto parte anche sotto la rappresentanza del governo per ovvi motivi. Abbiamo comunicato alla questura l'intenzione di muoverci in corteo in direzione della sede dove sarà presente la Lagarde. Noi pensiamo che sia necessario dare una risposta con tutta la serenità necessaria anche al clima di repressione pesantissimo che si è respirato in questi giorni in città, con tutta la questione del pilastro interamente delegata alla logica della gestione poliziesca a suon di idranti e lacrimogeni e arresti.